03 69 7 BR proveniente da Milano per Firenze Roma in arrivo sul binario 4 anziché binario 3 la prima passione obbligatoria. Espresso 688 proveniente da Reggio Calabria. Il Modena Reggio Emilia, Parma, Federico Piacenza, Milano, arriva sul primo punto. Prima classe in testa, grosso testa in gioco. Locale proveniente da Pistoia in arrivo sul binario 4, piazzale ovest. Diretto 25.09, proveniente da Alcuna per Modena, Reggio Parma, Fidenza, Fiorenzuola, Piacenza, Milano, viaggia con circa 40 minuti di ritardo. Espresso per Milano, primo vinto. Espresso per Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza, Milano, primo vinto. Okay. L'uno è da questa parte. No, sì, il 7 è il no, sempre il contrario. L'uno è da questa parte. E il 7 è da questa. No. This noise. This is zero. Zero. And this is one. Oh, there's nine to stay.

Allora, il nostro cliente vino finlandese per acqua, hai ragione. Niente a dire che la mia canzone con le bande tirolesi ha degli addentellati di altre culture. Questa riscoperta che ho lavorato con la mia canzone in 30 anni che vado a sentire bande. Non dimenticate con la grande festa del 15 agosto a Taranto. Il numero di porta la ciliegia. Sign for me. I hear you sign for me. Yes, I can. You're here. Here, this place. Yeah. In tutte le firme che vediamo. Grazie. Now we take a program. Perché you don't have to sign for me. Magari spazio è poco. Signori, per piacere, scrivere. Thank you. Mm-hmm. si capisce. Questo rappresentare il silenzio. Sì, proprio. Ma cosa metto? Non si capisce, lei ha detto, no? Cosa ci sarebbe da capire? No, ma io non sono dell'organizzazione. No, no, no, va male. No, però volevo sentire lo stesso. Non si capisce da capire. No, ma secondo me non si capisce. Piacerebbe sapere cosa c'è da capire. Ma forse soprattutto non è stato organizzato bene lo spazio per ogni gruppo, per esempio loro suonano in continuazione. Prima dell'avvenire, perché ho visto e notato che in lotta continuisti la prima fila che corre davanti a te. Ma chi è la gente con quale compagnia c'è qua? Dove vai? Chiunque non devo prendere in giro. Entusiasti sono loro. Ma le mette in no, non mi capire. Entusiasmo nello stesso tempo non è tutto comprensibile, ecco, però io sono d'accordo anch'io col signore, penso che sia la cosa un po' particolare, ma senz'altro la sua validità dal punto di vista va vissuto, va vissuto, se uno non la vive non la capisce. Thank you. Attenzione!